Parliamo con l'elefante di Giuliano Ferrara. 800 24 0024. Buongiorno a tutti. Il discorso di Obama all'Università Al-Azhar del Cairo, che è contemporaneamente un grande centro di cultura, di spiritualità e di formazione dell'estremismo jihadista. 30 anni fa partì da lì Ayman al-Zawahiri, il numero 2 di Bin Laden. Il gran discorso di Obama ci riguarda perché quello che fa l'America in rapporto ai talebani, in rapporto agli iraniani, al presidente Ahmadinejad, quello che fa l'America in rapporto al mondo arabo e al conflitto fra Israele e palestinesi è decisivo per le sorti della pace nel mondo. E dunque è decisivo anche per le sorti di ciò che abbiamo più caro, la nostra libertà, il nostro stile di vita, parlando con pardon, come si dice, senza accentuazioni troppo retoriche. Insomma, per il nostro modo di essere, fondamentalmente, l'eguaglianza uomo-donna, i diritti civili, i diritti umani, eccetera, eccetera. E Obama va lì e dovrebbe determinare, ha già anticipato in parte il suo discorso, una novità. Sentiamo due tra i nostri maggiori commentatori come prendono la cosa. Scrive sul Corriere della Sera, nel posto del fondo dell'editoriale, Antonio Ferrari: Obama ha già anticipato quel che dirà oggi all'Università del Cairo, volontà di dialogo con tutti, rinuncia all'imposizione, ma appello alla condivisione di valori che sono universali come la libertà e i diritti umani e una democrazia che, germogliando su basi culturali diverse, educhi al rispetto dell'altro. Messaggio semplice ma assai importante, perché non è rivolto alle passioni, alle appartenenze, ma va diritto alle menti di tutti i protagonisti, moderati ed estremisti. Insomma, Obama, come si può dire, prestigiatore psicologico, prestidigitatore psicologico, come mago della parola, che conquista le menti dei moderati e pure gli estremisti, e conquista queste menti facendo germogliare un discorso di valori diretto alle loro intelligenze, ai loro cuori, e mettendo da parte, cattivo quel Bush, l'imposizione, cioè la deterrenza, cioè la dissuasione, cioè la minaccia, e magari anche il coraggio di imporre con la forza la libertà, la Costituzione, eccetera, eccetera. Siamo messi bene, caro Ferrari. Per quanto riguarda Vittorio Zucconi, nulla cambia. Sulla Repubblica, l'editorialista principe, che scrive dall'America e adesso è in viaggio con Obama, credo, esordisce così, con un fare, diciamo, di lirismo storico. Nelle terre del libro, dunque nella culla del verbo, il nuovo presidente americano si affida proprio alla forza della parola per fare quello che nessuno prima di lui è riuscito a fare, toccare i cuori e le menti del mondo arabo. La forza della parola. Sappiamo chi ha usato la forza della parola in quelle terre e chi ha toccato i cuori di tutto il mondo partendo da quelle terre. Si chiamava Gesù di Nazareth. Non so se Obama possa riuscire, diciamo, lo stesso miracoloso e messianico percorso, ecco, se possa veramente riuscirci. Ne dubitiamo fortemente, ma siamo contenti che invece ci creda Vittorio Zucconi. Detto questo, né io né altri un po' fascisti come me si augurano il fallimento di Obama. Il fallimento di Obama sarebbe il fallimento dell'America. Non esiste l'America di Bush e l'America di Obama, esiste l'America, uno Stato con delle responsabilità che gli attribuisce la storia, che gli attribuisce la politica, che gli attribuisce il suo stesso statuto di potenza nata dall'idea di affermare un grande esperimento fondato sulla libertà degli uomini, e quindi nessuno si augura questo fallimento. Tanto più che se fallisce l'America, poi, diciamo, vince una logica che è questa. Se il presidente Obama non cambierà nei fatti, ha detto Ali Khamenei, la guida spirituale della rivoluzione iraniana, non cambierà nei fatti la sua politica, nemmeno 100 discorsi basteranno per cambiare l'immagine dell'America nei paesi islamici. Così ha detto Ali Khamenei, appoggiando nella sostanza Ahmadinejad. Sapete che domenica si vota in Libano e successivamente, il 12 giugno, credo, si vota in Iran. La folla cito da un comunicato dell'ANSA, che gremiva il mausoleo di Khomeini a sud di Teheran, ha risposto alle parole della guida suprema con slogan di morte a Israele. Questa è la situazione reale, al di là degli auspici di Ferrari e Zucconi. Obama, attaccato da Bin Laden, che ha detto, devo dire giustamente dal suo punto di vista, che le cose vere dell'amministrazione americana sono che hanno finanziato e aiutato militarmente il Pakistan a riprendersi la valle dello Swat invasa dai talebani, che vorrebbero così annettersi, diciamo, dopo l'esperimento afghano, anche un paese di 170 milioni di islamici, il Pakistan. E gli americani, diciamo, desidererebbero che questo non avvenisse, quindi picchiano duro. Che devono fare? Devono parlare alle menti e ai cuori dei talebani? Non facile. Bene, Obama è arrivato e noi abbiamo Maurizio Molinari che sta lì al suo fianco nell'università di Al-Azhar al Cairo e che ci dice tutte le ultime notizie. Molinari, so che hanno chiuso 7 quartieri dicendo ai loro abitanti di stare a casa per ragioni di sicurezza. Immagino che la sicurezza sia addirittura, diciamo, fantascientifica in questo momento, la gestione della sicurezza all'università Al-Azhar. Sì, esattamente così. Buongiorno, e noi siamo venuti al seguito della Casa Bianca, ci siamo spostati circa un'ora e mezzo fa dall'albergo vicino all'aeroporto dove c'è il centro stampa degli americani, da lì fino all'università ci sono voluti 3 quarti d'ora di pullman e siamo passati attraverso una città deserta dove la gente è chiusa nelle case, la circolazione è bloccata. Si vedono in strada solamente carretti a cavallo, persone a piedi e mezzi delle forze di sicurezza. Ci sono migliaia di poliziotti in divisa nera che danno le spalle alle strade e guardano verso l'esterno della strada, quindi c'è una muraglia umana di poliziotti. I poliziotti a loro volta sono sorvegliati dai tetti delle case da agenti del Mukhabarat, i servizi di sicurezza, in borghese. E dentro l'università ci sono anche reparti delle forze speciali americane, con l'accortezza però di essere in abiti civili e di non mostrare armi. Insomma, il Cairo appare una città sotto assedio nel timore di azioni islamiche contro il discorso del Presidente. Molinari, nessuno di noi, persone civili, sottovaluta l'importanza, e lo dico questa volta senza amara ironia, di un secondo annuncio dopo il famoso video agli iraniani favorevole a un nuovo rapporto tra Occidente e mondo islamico fatto dall'imperatore di Washington, dal presidente degli Stati Uniti. Nessuno di noi sottovaluta il fatto che quest'uomo sia un nero, figlio di un ghanese di religione islamica, il padre. Nessuno sottovaluta il fatto che si chiami Barack Hussein Obama, cosa ovviamente antropologicamente molto importante per la sua presentazione al variegato mondo islamico. Nessuno può sottovalutare tutto questo, sebbene in campagna elettorale fosse prudente invece mettere un po' la sordina a questo carattere speciale del nuovo presidente americano. Ma adesso, andando al dunque, mi pare dal racconto di come il Cairo si è predisposto ad accogliere il presidente Obama per questo storico discorso di apertura, che non tutte le condizioni, diciamo, sono riunite per una vera apertura politica e per realizzare una vera intesa cordiale tra Occidente e mondo islamico, visto che la città è deserta e visto che per difendersi, diciamo, dalle menti e dai cuori dei jihadisti bisogna impiegare tanti soldati, tanti poliziotti e svuotare una delle più grandi conurbazioni urbane al mondo, il Cairo. Ieri sera abbiamo incontrato Ariad Ben Rose, che è il consigliere di 31 anni che ha scritto il discorso che Obama sta per pronunciare e che, tra le altre cose, ha rimesso mano al testo questa notte dopo le minacce di Bin Laden contro gli Stati Uniti. Roth ci ha spiegato che il discorso di oggi fa parte di un processo, non è un momento ultimativo, definitivo. Questo processo è iniziato con l'intervista di Obama all'Arabia, è continuato con il messaggio di Obama agli iraniani nel giorno di Nowruz, quindi con il discorso che ha fatto al Parlamento di Ankara e poi l'incontro con gli studenti turchi a Istanbul, adesso il Cairo. Continueremo, ha detto Roth, perché la scelta del Presidente di dialogare con l'Islam è robusta. Ora, il punto è cosa significa dialogare con l'Islam. nella declinazione dei portavoce dell'amministrazione significa far condividere al mondo musulmano che l'identità islamica fa parte anche dell'identità americana. E quindi ci sarà un'accentuazione nel discorso di oggi sul ruolo dei musulmani americani, il contributo che hanno dato agli Stati Uniti, insomma far percepire l'America con un paese non estraneo al mondo dell'Islam. Ho capito, speriamo bene e facciamo molti auguri al Presidente Obama e ai suoi speechwriter perché queste parole vengano accettate diciamo con toni e atteggiamenti sinceri dalle classi dirigenti islamiche, moderate e meno moderate. Noi procediamo con la nostra analisi della realtà. Vorrei sentire da Lucia Annunziata, dopo aver parlato con Maurizio Molinari, che è corrispondente della stampa del New York, che sta seguendo Obama all'Università Al-Azhar, che ha scritto come editorialista della stampa, Lucia Annunziata, parecchio su questo tema. Come giudica lei la situazione al momento attuale? Cioè, per esempio, Obama ha riconosciuto che è in atto uno scontro di civiltà, nel momento stesso in cui ha detto che bisogna fermarlo. Obama non usa le parole a caso e come dire, si cerca un equilibrio tra la grande realtà dell'alleanza tra America e Israele, la caratterizzazione di Israele come avamposto della democrazia e della libertà in Medio Oriente e la necessità naturalmente di promuovere i valori di libertà, dei diritti umani, eccetera, ma senza ricorrere all'uso della forza, ciò che Obama per adesso esclude, nel resto del Medio Oriente allargato. Contemporaneamente però poi Obama invece ha iniziato una fortissima campagna di bombardamenti e di sostegno all'iniziativa militare dei pakistani nella valle dello Swat contro i talebani. Il quadro è molto complicato. Annunziata. Buongiorno intanto Giuliano. Buongiorno. Dunque, non torno sulle tue obiezioni che sono, insomma, voglio dire, sinteticamente giuste rispetto a quelle che sono le difficoltà e le contraddizioni del discorso di Obama. Volevo invece attirare la tua e la vostra attenzione su una cosa, a partire anche da quello che diceva Maurizio Molinari, no? Cioè Maurizio Molinari diceva che parlando ieri sera con il solito ragazzino sveglissimo, le hanno trovati tutti loro di 31 anni, no? Qual è la chiave del discorso? Il discorso era la percezione, no? Cioè andiamo piano e tentiamo di far l'obiettivo e di far percepire gli Stati Uniti come un paese anche musulmano. Cioè io credo che ci sia una falla in questo grande piano molto spettacolare del viaggio di Obama lì, ed è per ora una falla, secondo me, non so se sei d'accordo Giuliano, su tutto il suo modo di muoversi sulla politica estera, ma in particolare sulla questione degli arabi. Finora Obama si è molto mosso sul tentativo di cambiare le percezioni, essere percepito in un modo piuttosto di un altro, essere percepito come un presidente diverso, essere percepito gli Stati Uniti come una cosa diversa. Quello che manca dal discorso di Obama qui, come ai tre precedenti discorsi che ha fatto in politica estera, e che dunque non può rispondere alle contraddizioni che tu metti sul tavolo, è think big. Cioè finora Obama non ha avuto una grande idea che sta segnando in maniera netta e chiara la sua politica estera. Non sono sicuro che molto sul piano, sì, delle percezioni. Non sono sicuro che Lucio Caracciolo, che è qui con noi e che dirige l'IMES, di cui sta per uscire proprio martedì 9 un nuovo volume su Mediterraneo e Vicino Oriente, non sono sicuro che Lucio Caracciolo sia d'accordo con questa analisi. Ma io penso che Obama tutto percezione, diciamo. Sì, ma io penso che ci sia purtroppo molto di vero invece. Temo che Obama stia prendendo tempo. Ecco, quelle parole del giovanotto che scrive i discorsi di Obama è un processo. Sono le parole che si dicono quando non si sa bene che cosa fare e dove andare. Obama ha ereditato quello che lui ha percepito essere, io condivido fosse, un fallimento, cioè l'idea del Medio Oriente di Bush e Cheney. Facciamo la guerra contro i talebani e contro Saddam, diamo un segnale e poi da lì partirà un nuovo Medio Oriente democratico e filoamericano. Quell'idea non ha funzionato, appunto, anche la descrizione del quadro urbano del Cairo credo che ne fosse una testimonianza. Di qui a fare la predica e sperare che con le prediche si cambi la situazione, molto ne corre. Ecco, io penso che Obama dovrebbe cominciare a darsi delle priorità politiche e non solo a spiegare come si deve essere intimamente. Ecco, questo è interessante. Teoricamente in Italia si dovrebbe essere divisi tra noi conservatori, che diciamo che Obama è un predicatore ininfluente, e posizioni invece liberal, obamiane, che lo sostengono. Invece tutto si mescola, se Dio vuole, perché poi l'intelligenza delle cose impone di staccarsi le etichette. E quindi Lucio Caracciolo, Lucia Annunziata, eccetera, voi sottolineate che questo predicare di Obama va bene, è interessante, determinerà certamente anche delle novità, ma poi alla fine insomma risulta stucchevole. E io non mi auguro, come ho detto prima, l'insuccesso di Obama, perché sarebbe l'insuccesso dell'America. Ora faccio delle domande precise. Anche a Molinari, dall'Università di Al-Azhar, domenica si vota in Libano e alcuni osservatori prevedono che, insomma, sarà il crollo che già largamente, diciamo, si è imposto nelle cose di una nazione cristiana in Medio Oriente. Ecco, il voto in Libano, sapete bene che in Libano c'è un potere periclitante nel quale ha molta influenza la Siria. La Siria è in qualche modo un paese che solo con molta difficoltà Sarkozy ed altri cercano di sottrarre all'influenza iraniana. La Siria e l'Iran finanziano Hezbollah, che è il più grosso, diciamo, fattore di potere nel Libano, perché sono quelli che hanno le armi, sono quelli che hanno lottato contro Israele, che hanno fatto una intera guerra, sono quelli che sono sopravvissuti, sono quelli che riuniscono 1,5 milioni di persone nelle piazze, eccetera, eccetera. Poi avremo l'Iran, vince Ahmadinejad secondo tutte le previsioni, quindi vince colui che ha detto dobbiamo cancellare Israele dalla carta geografica e ha indetto convegni internazionali negazionisti per sostenere che la Shoah non c'è mai stata. Cioè, le cose vanno piuttosto male. Il Pakistan è all'offensiva, ma si fa per dire, nella valle dello Swat. I talebani hanno preso parecchio terreno anche in questi ultimi mesi. La situazione è drammatica, questa è la verità. E quindi uno dice bene le prediche, bene una diversa percezione, bene l'offensiva di persuasione e di dialogo, ma poi che c'è di sostanziale al di là del processo, Molinari? Ma a questa domanda David Axelrod, il guru politico del presidente Obama, ha risposto ieri dicendo che il presidente vuole parlare agli arabi come fa con gli americani, affrontando in maniera chiara le questioni controverse, scommettendo in questa maniera che chi la pensa in maniera diversa da lui possa avvicinarsi a lui. In realtà questa è la ricetta che Obama sta applicando in America, anche su temi difficili come l'aborto, la riforma sanitaria, dello stesso modo col quale affronta il discorso di oggi. Parlerà con chiarezza sui motivi dell'impegno militare americano in Afghanistan e Pakistan, della permanenza americana in Iraq, della necessità di combattere il terrorismo, cioè lo dirà con grande franchezza, assieme alla necessità di partnership su questioni umanitarie, la lotta alla povertà. E tutto questo sarà rimandato e trasmesso nel mondo musulmano attraverso internet e Facebook, perché il presidente è convinto di poter innescare un momento di cambiamento nel mondo arabo-musulmano. A chi gli obietta le difficoltà delle quali stiamo discutendo, lui dice: questi sono i cinici che si oppongono alle novità, lo hanno fatto in passato e si oppongono anche adesso. Io ho sconfitto i cinici in America, posso tentare di farlo anche in Medio Oriente. Non è un caso che il messaggio di Nowruz agli iraniani, il quale ha offerto agli iraniani l'inizio di una nuova stagione, era rivolto al popolo iraniano e non ai leader. In questo c'è un parallelo fra Obama e Bush. Anche il presidente Bush si rivolgeva ai popoli arabi e musulmani scommettendo sulla loro voglia e il loro desiderio di cambiamento. L'interrogativo è se Obama possa avere maggiore possibilità di successo. E parliamoci con questo elefante, 800-24-0024. E adesso parliamo di una questione notevole, importante, a proposito di Obama e l'Islam. 800-24-0024. Daremo anche la parola agli ascoltatori, ma prima avviamo la questione, che è questa qui. Allora, insomma, non c'è solo il problema del rapporto di Obama e degli Stati Uniti con gli arabi, c'è anche il problema ormai del rapporto con gli israeliani. Scrive sul Manifesto Zvi Schuldiner, e cito un editoriale del Manifesto, lo dico per quel Mauro da Milano che mi rimprovera di polemizzare con Zucconi, ma io polemizzo con tutti, a volte polemizzo persino con me stesso, figuriamoci se sono in questo fazioso o tendenzioso. Dice il Manifesto Zvi Schuldiner, diciamo uno con le idee molto nette a favore dei palestinesi e contro Israele, di cui dice c'è un fascismo israeliano da combattere, eccetera, eccetera. Mentre il mondo arabo, non pochi, si aspettano con ansia un cambio fondamentale nella politica estera americana, in Israele cresce la tensione, c'è chi parla di un presidente anti-israeliano. Voci dello staff di Netanyahu sono alimentate, secondo cui il premier israeliano avrebbe detto ai suoi intimi che gli americani vogliono far cadere il suo governo. C'è il mistero di un'udienza concessa a Ehud Barak, il ministro della difesa, di 12 minuti a Washington. E insomma, Netanyahu ha il problema di bloccare quello che ha l'aria di essere un cambio della linea americana. Addirittura, dice Schuldiner, l'ultradestra israeliana si converte all'antiimperialismo e chiama a resistere alle pressioni americane che potrebbero portare a un disastro perché gli americani non capiscono più quali sono i veri interessi dell'Occidente. Effettivamente un problema sta nascendo, non è ancora così crudo come lo dipinge Zvi Schuldiner sul Manifesto di oggi, ma un problema serio sta nascendo e bisogna che... Bisogna che ne parliamo, insomma, perché, insomma, ecco, per esempio, Diego da Roma. Diego? Sì, buongiorno. Buongiorno, prego. Mi sembrava interessante la questione affrontata della debolezza nella politica estera di Obama, della palla della politica estera. Io credo che essenzialmente se lui nel discorso del Cairo non parla della questione palestinese, in qualche modo fa un grosso errore, perché poi alla fine gran parte delle tensioni medio orientali sono su quello, per cui non si può non affrontare la questione dei due popoli, dei due stati, la questione palestinese, una linea che porti a una risoluzione di un dramma che da 40 anni ci affligge. Per cui sì, se non... questo è per l'appunto uno dei temi duri di confronto con Netanyahu, perché il nuovo governo della destra, del Likud, anche se poi c'è un ministro della difesa laburista come Barak, israeliano, stenta a riprendere, diciamo, il filo della vecchia diplomazia dalla questione due popoli, due stati, che effettivamente dopo la divisione palestinese e l'impianto di Hamas a Gaza risulta oggi una parola d'ordine abbastanza campata per aria. Volevo però dire, poi do subito la parola a Lucia Annunziata e a Molinari e a Caracciolo, volevo però dire una cosa: cerchiamo di non sfidare il senso del grottesco. Questo gran parlare che si fa degli insediamenti israeliani, eccetera, eccetera, è un problema, certo che è un problema, ed è un grandissimo problema, perché è un segno simbolico della volontà o no di trattare, di come trattare. Però noi abbiamo avuto, attraverso scontri e sofferenze, lo sgombero da Gaza degli insediamenti israeliani, e sappiamo com'è finita. È finita con la peggiore delle soluzioni possibili: le sinagoghe distrutte, ciò che era stato costruito sventrato, e al posto degli insediamenti oggi c'è il governo di Hamas, cioè un governo terrorista nella striscia di Gaza, che ha cacciato a fucilate, ammazzandone un gran numero, quelli di Fatah e i cosiddetti arabi moderati, palestinesi moderati di Abu Mazen. Questa è la realtà delle cose. Voglio dire, ci sono i talebani a 80 chilometri da Islamabad, c'è l'Iran all'ultimo miglio, diciamo, rispetto al nucleare militare, Insomma, ci sono questi fenomeni nel mondo e noi stiamo lì a perdere tempo con la questione di 4 insediamenti palestinesi alle porte di Gerusalemme. Via, non facciamo ridere. Annunziata. Beh, Giuliano, io sono abbastanza d'accordo con te, come dire, in una trasmissione che forse anche tu ti ricorderai, da cui me ne sono andata, giusto per sottolineare certo. La differenza di analisi. Io, come allora e ancora oggi, credo che il problema vero dei palestinesi a questo punto non è Israele e del mondo arabo in generale non è Israele, ma purtroppo è la guerra tra arabi. C'è una sola cosa che tu non hai detto, cioè che la vittoria di il cambiamento a Beirut, la rielezione di Ahmadinejad, eccetera, eccetera, non è la vittoria di un settore, è una vittoria di un settore contro l'altro nel mondo arabo. Nel mondo arabo si sta combattendo, come vediamo appunto nella guerra civile tra i palestinesi Fatah e i palestinesi Hamas, una guerra da tempo, diciamo, potremmo farla datare, e non vado troppo indietro, ma la possiamo datare dalla guerra, quella moderna, dall'invasione di Saddam del Kuwait. C'è una guerra interna di dominio del mondo arabo e questo è il problema per Israele. Certo. E Israele io penso che oggi il problema di Israele è un problema diciamo gravissimo, perché dalla guerra in Libano pochi anni fa è stato reso noto agli occhi di tutto il mondo che Israele non è più una potenza militare, Israele è molto debole proprio anche militarmente, purtroppo lo è anche come coda del fallimento dell'invasione della guerra in Iraq. E oggi il problema che c'è nei confronti di Israele non è quella di difendere i palestinesi da Israele, anche perché anche lì ci sono le cose. Il problema vero di Israele è che sanno tutti che Israele oggi va difesa, e questo è il problema di Netanyahu, certo. E questo è il grande problema che ha avuto il ministro degli esteri D'Alema quando era ministro degli esteri, certo. Lui stesso sulla guerra del Libano disse un Israele debole non serve a nessuno. Sì, un giorno allora, mi spiegherete che cosa intendete dire quando dite con tanta facilità fallimento della guerra in Iraq, visto che Obama manterrà lì 65.000 soldati, l'Iraq diciamo sta cercando di gestire le proprie risorse petrolifere, ha una costituzione, non è più uno stato terrorista in mano a una banda di feroci e sanguinari dittatori. Posso rispondere? Sì, prego. Intanto per fallimento mi appello a quello che ha detto prima Lucio, è il fallimento del grande schema su cui quella guerra era stata fatta. Vabbè, cioè una cosa concettuale, però nella concretezza il fallimento non c'è stato. Giuliano, quello non era uno stato terrorista, sono balle e sono straballe, ah, no, è stato provato che non c'era uno stato terrorista, era uno stato marazzone medio orientale con un altro marazzone. 8 milioni di morti, Iran, Iraq, i curdi, gli sciiti nel sud, l'invasione del Kuwait, ma quelle sono Saddam Hussein, ma abbiamo impiccato un marrazzone, ma sì, ragazzi, Giuliano, ma sì, era uno ma che dei dite? Tanti despoti medio orientali, ma ce che ne sono dite? Tanti. Gli missili SCAD su Gerusalemme, ma, posso dire una cosa, ma Giuliano, come? I premi ai terroristi kamikaze del Cairo, troverai altrettanti guai combinati ma da no, Mubarak. Dai, Mubarak è nelle mani degli seri. Americani, salvo Iddio, ricordati che si fa il bagno a Sharm el Sheikh. L'esperienza di... Ma era il nemico assoluto Saddam Hussein, bisognava farlo fuori, dai. Diciamo, su questo siamo in disaccordo. Va bene. Allora, caracciolo, Israele che litiga con gli americani. Questa è la vera novità. Altro che se possibile. D'altronde abbiamo dimenticato che molte altre volte è successo in passato, eh? Non è una novità assoluta. Ma la vera novità di Obama rispetto a Bush in questi primi mesi è che è in rotta di collisione con Israele. E io credo che effettivamente il suo obiettivo sia quello di far cascare Netanyahu. Non perché gli sta antipatico Netanyahu, ma perché Netanyahu ostacola la sua idea di fondo, e cioè che bisogna trovare una soluzione della questione palestinese, due popoli, due stati, perché di qui si ricostruisce la pace in Medio Oriente. Questo, secondo me, lo dico purtroppo, è un mito, cioè non è così. La questione palestinese in questo momento non esiste. Non esiste perché non ha una soluzione. Certo, esiste in termini pratici, umanitari, di questa gente maltrattata e occupata e senza prospettive, ma non c'è una possibilità di risolverla per almeno due buoni motivi. Il primo motivo è che i palestinesi sono impegnati in una guerra intestina da cui sembra non possano emergere, e quindi non c'è un interlocutore con cui parlare. E per questo naturalmente Israele ha anche grandemente contribuito, perché è nell'interesse di Israele impedirlo. Il secondo motivo è che Israele non ha nessuna voglia di riaprire una questione che considera chiusa, nel senso che considera di aver vinto una guerra pluridecennale con i palestinesi e che i palestinesi potranno autoamministrarsi in alcune parti residue della Cisgiordania e di Gaza, e per il resto il vero problema è l'Iran. Quindi non si tratta di palestinesi come nemico principale di Israele, ma si tratta dell'Iran. Questo non mi pare che sia il punto di vista americano. L'America vorrebbe un governo con Tzipi Livni, Barak e quanti altri, un governo che riproponesse almeno a parole l'ideale dei due stati, anche se io temo questo ideale non abbia alcuna possibilità di essere realizzato. Ecco, il realismo e l'amarezza delle parole di Lucio Caracciolo dovrebbero esserci di insegnamento, perché lui è un realista, dirige questa rivista, l'IMES, e fa questo lavoro anche di aggregazione della classe dirigente che si occupa di politica estera, nel segno del rifiuto sempre delle ideologie, degli schemi, delle parole d'ordine troppo facili. E insomma, purtroppo, quando è la sua parola che va nella direzione dell'amara constatazione di come sono messe oggi le cose in Medio Oriente, bisogna stare molto attenti, perché è una parola da questo punto di vista che pesa, che ha autorevolezza, proprio perché nasce da un'analisi disincantata della realtà. Lo stesso vale naturalmente per la mia amica Lucia Annunziata, nonostante i feroci dissensi sul significato della guerra in Iraq e sul suo valore storico. Molinari, Israele e Obama litigheranno sul serio? Ma io sarei prudente. Negli incontri che Obama ha fatto con Abu Mazen, Netanyahu e il re Giordano Abdallah, sul tema del Medio Oriente fondamentalmente ha posto due richieste. Ha chiesto a Israele di sospendere gli insediamenti e ha chiesto al mondo arabo di iniziare un processo di riconciliazione con Israele. Queste due richieste sono in sintonia con il piano di pace saudita del 2002, che l'amministrazione Obama ha detto di sostenere, che probabilmente nel discorso che stiamo per ascoltare lui rilancerà, farà suo con una sua elaborazione. Conoscendo come lavorano le amministrazioni americane, iniziano molto da lontano, cioè iniziano nell'esposizione dei problemi da risolvere. Ora, i due problemi da risolvere per Obama sono questi: la presenza degli insediamenti nella West Bank e il fatto che 57 paesi musulmani, sbaglio 55 tranne l'Egitto e la Giordania, non hanno relazioni diplomatiche e commerciali con lo Stato di Israele. Sono questi due problemi che vuole risolvere. In questo lui ha una posizione bilanciata fra il fronte arabo e quello israeliano. Non a caso oggi il suo discorso sarà tradotto non solamente in arabo, persiano e urdu, ma anche in ebraico. Ci saranno dei messaggi anche per gli israeliani. Obama non sta abbandonando Israele, sta tentando di far coincidere gli interessi nazionali americani con quelli degli arabi e degli israeliani. Il vero contrasto con Israele non è sulla questione palestinese, è sull'Iran. Come diceva De Gaulle quando gli dicevano che bisognerebbe abolire i cretini nel mondo, vale anche per Obama e per questi fini che tu gli attribuisci, Maurizio, vast program, programma molto impegnativo. Bene. Bene, 800 24 00 24. Molinari, facciamo una ripresina di cronaca. Dove parlerà Obama? Nell'Aula Magna, immagino. Lei l'ha vista? Sì, io sono dentro, sto parlando da dentro l'Aula Magna, da una finestra dell'Aula Magna. Come da una finestra? È appeso alla finestra, Molinari? Da una finestra è l'unico posto dove c'è ricezione. Com'è? Che struttura ha? Che cos'è? Una cosa... c'è un grande palco con uno sfondo di tende di velluto rosso, e di fronte a questo velluto rosso c'è tutta una fila di bandiere americane ed egiziane. Vabbè, il solito arredamento kitsch. Ma voglio dire, com'è la situazione? Ci sono i mullah? Com'è? Si vedono i turbanti? La sala è stracolma e molti sono giovani, direi la grande maggioranza sono giovani, moltissime donne, tanto con il velo che non, diversi tipi di velo, tanto il chador, l'hijab, insomma varie declinazioni, quindi devo dire uno spaccato, ma soprattutto giovani. Gli americani ci avevano detto anche che ci sarebbero stati dei rappresentanti politici dell'opposizione, soprattutto dei fratelli musulmani, ma ancora non li abbiamo visti. Ma e quindi diciamo hanno tutti il bollino del governo, oppure questo è un bel punto, oppure ci potrebbero essere contestazioni? In un'ala magna dell'università le contestazioni ci stanno pure. L'unica cosa che posso dire è che entrando abbiamo visto che ognuno aveva una specie di invito, quindi evidentemente erano stati autorizzati e controllati. Ora, cosa avverrà dentro ovviamente non lo sappiamo. Comunque l'aula è gremita e c'è attesa ovviamente, questo sì. Questo fra quanto tempo inizia il discorso ora del Cairo? All'una e 10 ora del Cairo. Ah, è a mezzogiorno ora nostra quindi. E è previsto che gli risponda qualcuno, che parli con qualcuno? No, non è previsto. No, parla soltanto Obama. Sì, quello che è invece forse previsto... il rettore lo introdurrà, no? Lì non lo sappiamo, non ci è stato detto. Immagino di sì, perché insomma il padrone di casa sarà il rettore. Quello che è interessante, gli americani hanno messo su un sistema online attraverso un sito del Dipartimento di Stato che consente a chiunque di mandare SMS al Dipartimento di Stato. Cioè un sito che america.gov... punto SMS dove si possono mandare commenti istantanei in qualsiasi lingua del Medio Oriente e si riceveranno risposte, assicurano gli americani. Sì, Obama è proprio convinto che la sostanza della politica è la comunicazione. E devo dire però che dal punto di vista della costruzione, non so se Lucia su questo è d'accordo, della sua candidatura, che è uno dei più grandi capolavori politici degli ultimi 50 anni, perché andare diciamo al governo, è vero che Bush era molto impopolare, è vero che i costi psicologici della guerra sono stati feroci nell'opinione pubblica americana e che la crisi economica è andata come è andata. Però, insomma, diventare presidente, essendo un giovane nero di 47 anni, educato a Harvard, in fama di liberal, eccetera, eccetera, eccetera, con un mentore come quel prete un po' pazzo della Black Church di Chicago, insomma, che spaventava gli americani, è stato un grande capolavoro politico. È stato poi un rassembleur, uno che ha unificato l'America. Si è visto dalla reazione di McCain quando ha perso, si è visto dal rispetto di cui gode la sua presidenza, a parte Cheney, che è rispettoso, ma insomma gli fa le pulci con grande dedizione. Allora, lui ha basato il suo successo sulla comunicazione, ma la comunicazione va bene per diventare presidente, per essere un candidato che piace, per lo scrutinio dell'opinione pubblica. Credere così tanto nella comunicazione, magari qualche volta a scapito della sostanza politica delle cose, degli atti, delle decisioni, è invece meno facile quando si deve governare. L'America e il mondo, non crede Lucia? Ma me l'hai tirata questa risposta, nel senso che considerando che Berlusconi in Italia ha puntato tutto sulla comunicazione, si è sempre detto, non lo dico io, un genio appunto della comunicazione, del cambiamento, degli stilemi della politica, portandoli appunto verso l'immagine della comunicazione a scapito della sostanza, direi che se l'Italia è un buon esempio con tutti i cambiamenti, sì, è vero, Obama avrà problemi. Lo dico un po' per provocarti, ma un po' perché ci credo. Io non sono una giovane, non so quante volte ho sentito questo termine in questa trasmissione, devo dire che ormai comincio ad avere la... Qui nessuno è minorenne, Lucia. Sì, non sono né giovane né minorenne, ma devo dirti che veramente questa storia della ripetuta frase giovane in collegamento con Obama, con la cosa di Obama, sta diventando non solo stucchevole, ma un elemento di prurito, insomma. Lo dico perché va bene essere giovani, ma poi anche questo è uno stilema pubblico formale, non il problema è sostanziale. Allora, penso che il governo di Obama sarà poi giudicato per quello che fa, e oggi ancora su quello che fa noi abbiamo tantissimi dubbi. Due o tre cose le ha fatte. Per esempio la chiusura è stato molto chiaro sulla chiusura di Guantanamo. Molto chiaro, ma non l'ha chiusa e non credo che la chiuderà entro l'anno. Non l'ha chiusa e non credo che la chiuderà entro l'anno. Vabbè, ma insomma, almeno su quello si è pronunciato, una di quelle cose. Ma per esempio, una delle robe che i cronisti che viaggiano con Obama non hanno scritto e non scriveranno è che Obama ha tagliato tutti i fondi delle ONG americane che lavorano in Egitto. Notiziola, ma relativamente, l'Egitto è uno dei grandi donati dagli Stati Uniti e fino a pochi anni fa era addirittura al primo posto, e le ONG americane in Egitto hanno una grande funzione, perché io prima lo dicevo, diciamo, se apriamo il dossier Mubarak, che è una cosa che non si può fare perché Mubarak è un amico dell'Occidente e quindi tiene in equilibrio il tutto, quindi non si può fare, e se provate a farlo in Egitto non si è siete, come dicevano, fortunati. Mi ricordo chi è un figlio di puttana, ma è il nostro figlio di puttana. Sì, esatto, bravo, is our son of a bitch. Allora, come voi sapete, tutta la questione dei diritti umani, tutta la questione dei diritti anche civili, neanche umani, insomma, voglio dire, è una grande spazzatura che sta sotto tappeto della democrazia. Da quel punto egiziana. Di vista lì non c'è niente da fare, insomma. Ecco, però io voglio dire, mi auguro questa che sia è una vero... contraddizione, Giuliano, sì, capisci? Sì. Cioè lui, Obama, ha tagliato i fondi per l'ONG. Sì, sì, sì. Mi auguro e questo per esempio è uno dei problemi. Volevo semplicemente supportare il tuo discorso con un piccolissimo dettaglio. Grazie Lucia. Mi auguro che abbia ragione Claudia Mancina, che sul Riformista di oggi dice: ma insomma, poi alla fine è possibile affermare contemporaneamente l'università dei valori dell'Occidente, libertà, diritti umani, eccetera, eccetera, democrazia, diciamo stato di diritto, funzione della maggioranza, elezioni, costituzione, eccetera, e contemporaneamente però rispettare le identità culturali e di civiltà di chi con questi diritti non ha mai fatto i conti, perché ha un'altra struttura e, come dire, un'altra religione, anche un'altra impalcatura a sfondo religioso, culturale. Mi auguro che sia possibile. Secondo Lucio Caracciolo è possibile? No, assolutamente no, anche perché quelli che noi pensiamo essere valori universali non sono riconosciuti come tali dai nostri interlocutori, e soprattutto perché i nostri interlocutori predicano valori altrettanto universali dal loro punto di vista che noi non riconosciamo. Bene, siamo a posto. La dittatura del relativismo non vi si può sfuggire. Grazie a Lucio Caracciolo, grazie a Lucia Annunziata, grazie a Maurizio Molinari. Auguri, speriamo che ci siano contestazioni per il bene naturalmente di Maurizio Molinari, che è lì nell'aula magna e deve fare la cronaca, che sarà più sapida e più interessante, che leggeremo domani sulla stampa. In redazione Franca Fossati, Gloria Guerrero, in regia Alessandro Chiappini e Giorgio Mattei, al GR, poi Gianluca Nicoletti con Meloc 2.0, a mezzogiorno speciale di Radio 24 condotto dal direttore Gianfranco Fabi e da Gigi Donelli sul discorso di Barack Obama. Grazie a tutti voi. A domani, vigilia elettorale. Radio 24.